Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 8, lezione 7. Una breve meditazione è un ottimo inizio della lezione. Una breve preparazione, quindi ora tu puoi assorbire ciò che ascolti o leggi. Attraverso la meditazione puoi sintonizzarti sul tuo essere interiore. Dovuto a questa sintonia, tu ascolti meglio e l'ascolto può essere portato molto più profondo. Tutto dipende dal tuo atteggiamento. È proprio la tua collaborazione che rende il tuo essere interiore silenzioso. C'è una legge dell'universo. Nulla scompare nello spirituale. Perciò è necessario purificarsi prima. Quindi, ora puoi attirare la luce. Come conseguenza della tua purificazione, la luce scenderà verso di te. Questa è anche una legge dell'universo. La luce è per ognuno di noi ed era e sarà disponibile per coloro che hanno fatto la purificazione in questa vita. O si purificherà in questa vita e naturalmente anche in altre vite. La luce è sempre là. Quando qualcuno muore, c'è una separazione tra il corpo fisico e l'anima. Ciò che rimane dietro è la linea di separazione. Prova a immaginare questo come il cono di una candela. Le persone che si sono purificate e muoiono lasciano dietro una linea di separazione. E questa linea è ancora tangibile dalla tomba fino allo spirituale. Forse tu ora capisci perché le persone visitano le tombe di persone speciali e perché loro sentono una tale e profonda impressione. Si sentono i punti di forza che sono ancora tangibili, come una colonna di forza, forza pura. Questa colonna, questo cerchio di forza manca all'ego. Non c'è terreno fertile per l'ego. È per quello che tu diventi così silenzioso. Più ti concentri sul tuo essere interiore, meno il tuo ego sarà nutrito. Quando hai raggiunto questo punto di calma, sei capace di prendere il più possibile da quello che ascolti e leggi. Attraverso questo silenzio, tu inizi a sentire qual è la reale essenza? È perché il tuo ego non c'è più. Ecco perché devi meditare. Attraverso la meditazione ti rendi credibile per i più alti punti di forza. Stai creando dentro di te la connessione con il Creatore. Ti sintonizzi con gli attributi del Creatore. Più fai questo, e prima arrivi al tuo compimento. Lentamente, ma costante una nuova persona sorge. Passo dopo passo, ti sviluppi all'interno di te stesso le qualità dell'uomo nuovo. Messia significa che ti prepari per l'unità con le forze superiori. Tu devi tirarti fuori dai poteri del tuo ego. Così facendo, usi la forza del Messia, dell'ebraico è Mashiach, una forza che è in ognuno di noi. Il Messia non è una persona, ma forza dentro di te. E attraverso questa connessione e le tue azioni ai quattro comandamenti, hai già iniziato con la meditazione spirituale. Il processo spirituale è un processo di gradualità. Devi essere paziente e sei tu che devi sapere quanto puoi andare lontano. Sei tu che devi fare considerazioni sincere tra quanto velocemente andrò e come posso farlo con la massiva purezza. Tutti vogliono raggiungere il traguardo il prima possibile. Ecco perché ci sono così tante domande sullo Zohar. Ma il mio consiglio per te è non toccare ancora lo Zohar. Ciononostante la traduzione della lingua, perché quando inizi a leggere lo Zohar e non sei pronto per esso, è come una fiaba. Il problema è che inizi a creare le tue proprie immagini. E questo è legato allo Zohar, perché leggendo lo Zohar seguiranno le immagini, perché è il linguaggio delle immagini. Non c'è persona in tutto il mondo che possa capire lo Zohar. Solo alcuni possono comprendere lo Zohar perché è tutto riguardo alla comprensione. Tu devi comprendere lo Zohar attraverso la Kabbalah. Finché ci sono delle immagini tra te e il Creatore, tu hai del lavoro da fare, devi cancellarle, così quando le immagini sono cancellate il Creatore può entrare. Un vero cabalista parla e racconta solo ciò che ha compreso. Non pensare che capirai lo Zohar anche quando lo leggerai nella tua lingua, nell'italiano. Lo Zohar è tradotto in molte lingue perché per il commercio è buono. Per il commercio, ma non per te. Non toccare lo Zohar, impara le cose che ho dato e che ti dirò, è possibile diventare un rabbino solo leggendo questo. Non hai bisogno di altro. Ma per il momento non toccare ancora lo Zohar. Quando qualcuno è pronto, imparerò con lui lo Zohar, ma non farlo da te. Tu sei seduto qui a questa lezione e stai leggendo questo e tutto quello che io sto facendo è per risvegliare il tuo essere interiore. Nei libri non leggerete una cosa sull'essere interiore. Ciò che è scritto è per l'essere esterno. È la conoscenza dell'albero di vita. Ci manca la comprensione. Tutto quel che è scritto è là per il commercio. Quindi, cos'è che succede quando leggi i libri e non sei pronto per questo? Il libro si chiuderà per te. La forza verrà tolta. Vorrei sinceramente che anche tu diventassi un cabalista, che tu possa diventare un insegnante. Ma solo dall'interno, perché per un cabalista il processo di pensiero è scomparso. Cosa intendo con questo? Rimane per sempre e sempre il contatto con il suo essere interiore. Quindi sappi cosa stai facendo. Dare e trasmettere senza ricevere. Puoi guadagnare denaro, ma quando lo fai ti rendi essenzialmente inferiore. Ciò che ti trasmetto è più che sufficiente. L'ulteriore lettura che ti porterà ad un passo avanti. Creda, fidati di me. In me non c'è altro interesse. Abbi il controllo sulla tua curiosità. Ci sono molti libri scritti e loro vogliono solo stimolare il nostro cervello. Tutti i cosiddetti libri spirituali provocano solo il nostro cervello, ma non ti porteranno a compimento, quindi non toccarli. Abbi autocontrollo. Quello che stai cercando è dentro te stesso. Questo è il posto dove devi iniziare la tua ricerca. Ricorda questo. È molto più semplice e risparmi un sacco di soldi. Allora, qual è il significato di questo corso? Quello che sto cercando di fare è accelerare la velocità e il tempo della nostra correzione. Lasciatemi fare un esempio. È come una maratona. Ogni partecipante arriverà al traguardo. È lo stesso con la Kabbalah. Ognuno di voi arriverà al traguardo, al suo obiettivo, la sua destinazione. È tutta questione di velocità, giusta e solo velocità. Quindi avere autocontrollo. Io ti guido solo così puoi venire alla tua realizzazione, ma non seguirmi, segui la tua guida interiore. Il Creatore guarda quelli che possono rendersi piccoli, persone che non hanno carisma. Chi non ha carisma può rendere se stesso piccolo, umile, ma nel giusto modo, e quelle persone possono imparare e diffondere ciò che essi hanno imparato. Ricorda questo ogni volta che inizi a leggere. Lo stai facendo solo per venire alla tua destinazione, il tuo obiettivo. È il tuo obiettivo, è una parte di te, e sei te che devi raggiungere il tuo obiettivo. L'obiettivo è concesso per te, è l'obiettivo con cui puoi arrivare alla tua realizzazione. La Kabbalah ti sta aiutando a raggiungere il tuo obiettivo di creazione. Tu devi fare questo. Nessuno può fare questo per te. Quello che stiamo imparando è la vera spiritualità. È tutto su di te. Osserva te stesso, solo te stesso. Cosa ti trattiene indietro? Chi ti sta trattenendo per imparare questo? Quante scuse hai per non leggere questo? Quando dici io non ho tempo, ho mal di testa, eccetera, sappi che questa è solo una scusa che viene dal tuo ego. Quando dici io non posso fare questo perché devo aiutare un'altra persona. Questa è anche una scusa del tuo ego. Qualunque sia la ragione, sei già in ritardo. Devi essere davanti al tuo mal di testa. Come? Appena senti qualcosa o qualcuno che ti sta tirando verso il basso, questo è il punto che devi essere vigile. Cosa o chi è che ti tira verso il basso? Solo allora puoi fare i preparativi. In un certo modo essere sempre avanti di te stesso. Nota. Stai attento, è il tuo ego. Il tuo ego sussurra nelle tue orecchie, dicendo di fare una pausa a rilassarsi. Il tuo ego, il tuo male ti sta sussurrando nelle orecchie perché l'ego non guadagna nulla quando ti tieni occupato con lo spirituale. Tutta l'energia che si sta liberando non è il cibo che piace all'ego. Ma quando sei occupato con l'essere esterno, l'ego vince. Quando ti sei sintonizzato sul tuo interiore, hai la sensazione che non c'è ora e qui, anche la morte è scomparsa. Ma devi sapere, l'ego è ancora là. L'ego è ancora attivo, ma per il momento è tranquillo. Quindi stai sempre attento. Trova il tuo tesoro. Questo è il punto in cui l'ego non ha business. Non dare all'ego un terreno fertile. Qualche volta ti accorgi che sei in ritardo, è il momento di essere gentile con te stesso. Vedila come una lezione. Hai imparato una cosa nuova. Il tuo ego è desideroso di sedurti. L'ego vuole approfittare di te. Perciò rimani sempre fedele a te stesso. Risveglia il tuo interiore. Il tuo ego ha paura per l'interiore. Il tuo ego ha paura della frase come sono soddisfatto. Io non ho bisogno di altro. Il tuo ego è così impaurito. Da questo atteggiamento non lo sopporta, ma è il momento in cui il tuo interiore può trarne vantaggio. E ora sei pronto a tenerti occupato con l'Eterno. Non c'è niente di sbagliato nella malattia. Sono solo lezioni su noi stessi. Per esempio, la depressione può essere superata attraverso l'interiore, avendo fede in te stesso, e attraverso questo riconoscerai sempre di più la forza in te stesso. Sei in un processo di apprendimento. E solo attraverso il processo di apprendimento la tua fede crescerà. Quando c'è il pensiero profondo nella tua coscienza di non ho bisogno di niente o nessuno, allora la consapevolezza verrà dall'alto. Sarai aiutato dall'alto. Devi imparare a essere senza mezzi esterni. Tutto è spirituale, nota questo. Stai attento. Un altro esempio: potresti essere un fumatore. Guarda te stesso, cosa stai facendo? Vedi il tuo movimento. Sembra innocente. Ogni volta che si soffia fuori il fumo, si soffia via l'alto sentimento che è dentro di te. E stai imparando la Kabbalah? Devi essere consapevole di tutte le tue azioni esterne. Hai del lavoro da fare. Sii sempre attento in qualunque cosa tu stia facendo. Ora stai imparando la Kabbalah. C'è un'altra cosa da ricordare. Impara anche che tu sei più basso di chiunque. Sei tu che devi tenerti impegnato con la tua realizzazione. L'arroganza viene dall'esterno. Resta sempre in contatto con il tuo interiore. Ascolta attentamente. Non parlare mai di un'altra persona. Nella Kabbalah non parliamo di altre persone, è sempre sui punti di forza che la persona porta dentro di sé. Non si tratta della persona, ma riguarda la forza. Fai dei cambiamenti nel tuo essere esterno. Lascia che arrivi in conformazione con il tuo interiore. Lavora sempre e con il tuo interiore. Puoi confrontarlo con un uomo sportivo che sta allenando il suo corpo. Tu stai addestrando il tuo interiore. Fu Darwin che vide l'essere esterno che era imparentato con la scimmia. Non pensare che questo non abbia nulla a che fare con l'incredulità. L'essere esterno è la scimmia. Entrambi sono fatti dal materiale della terra. Il lavoro spirituale ha tutto a che fare con le cose per il creatore, poiché del creatore. Fare qualcosa per il creatore è sempre facile, ma non lo è. Puoi confrontare questo con qualcuno che lavora per un'azienda. Lavora per un'azienda speciale. Lui può dire di essere collegato con la sua azienda, ma riceve denaro da questa azienda. Tu stai lavorando per l'azienda perché l'azienda ti paga. E non appena un'altra società ti offre più soldi, tu vai al concorrente. È finito il collegamento. Allo stesso modo, una persona religiosa lavora per il Creatore. Il lavoro per lui. Io lavoro per lui e ora lui può darmi qualcosa in cambio. Lavoro per lui così io posso ricevere in cambio più forza vitale, più forza per lo spirituale. O io lavoro per lui, così più tardi avrò la ricompensa. Ci sono molte ragioni per cui una persona lavora per il Creatore. Ma sai che tutte queste ragioni sono di un bambino. Sono ragioni immature. È un amore dipendente. Ti senti connesso, magari anche una vera relazione molto forte con il Signore, con il Creatore. Ma di lavorare per il Creatore a causa del reato. A causa del creatore, suona diverso. Prima impari come lavorare per il creatore, ma alla fine deve essere a causa del creatore. Persone ricche e speciali vogliono imparare la Kabbalah. Perché? Le persone ricche hanno tutto ciò che il loro cuore desidera, ma non c'è soddisfazione. Il loro interno rimane povero. Ecco perché loro vogliono imparare la Kabbalah, per ottenere anche la ricchezza interiore. Ma stanno imparando per ricevere qualcosa in cambio. Basta. È abbastanza. Impara a vedere la connessione. Quando tu raggiungi la tua realizzazione, non sarai più affamato. Quindi lavora perché dal Creatore sarai riempito. Perché significa che è la sua volontà, non la tua. Fai in maniera che i suoi attributi stiano funzionando, poiché sono del Creatore. Accordo in qualità. Il tuo interiore deve essere in conformità con i suoi attributi. Quali sono i suoi attributi? Li impareremo. Impareremo come l'universo è stato creato. Questo è il lavoro dato del Creatore. Questo è il modo per venire alla realizzazione. Nessuno può rafforzare la tua volontà. Sei tu che puoi portarti alla realizzazione. Essere parte di un gruppo assume obblighi. Noi siamo liberi. Completamente liberi dall'esterno, ma dall'interno siamo connessi con ogni altro. Colui che ha molta pazienza imparerà lo Zohar. Se è il desiderio del Creatore, è il desiderio del Creatore parlare con il tuo cuore e dire: se questo è quello che lui vuole, o il Creatore mi ha portato qui. Tu pensi di avere determinati punti di forza, ma non lo è. Esse sono la sua forza. Imparerai nel modo giusto per essere assertivo. Ognuno di noi deve essere assertivo. Devi parlare per te stesso in ogni cosa. Il Creatore ti dà un segno. Quando fai qualcosa da solo, con la tua volontà di dare, otterrai un segno. Il Creatore ti dà un segno. Nota questo sempre sii vigile. Qual è il tuo segno speciale? Pensa al suo aiuto. Con il suo aiuto puoi ottenere qualsiasi cosa. Ma non con la tua volontà solo per ricevere. Se lo fai per il Creatore, riceverai un segno dall'alto. Perché? Il segno ti tratterrà dal fare qualcosa di sbagliato. Quindi è molto importante riconoscere il segno che ti è stato dato dall'alto per sapere qual è il tuo segno. Impara come chiedere, impara il come e quali domande, non il perché. Chiedi a te stesso. Scrivilo, riceverai la risposta sulla tua domanda. Si verificherà nei tuoi pensieri, e mentre stai leggendo qualcosa o senti altre persone parlare, questo è molto importante. Perché? Perché ora fa parte della tua comprensione, non da qualcun altro. Non da una persona che ti sta insegnando. Nota, non è che io non voglio darti una risposta perché io non lo voglio. Va lontano, più profondo. Quando io do una risposta alla tua domanda, dov'è l'apprendimento per te? Rendi te stesso basso, piccolo, umile, e la risposta verrà a te, in modo che devi essere molto desideroso dall'interno. Più tu vuoi ricevere dall'interno, più tu devi farti piccolo e più umile. Più piccolo fai te stesso, più tu puoi ricevere, e questo è lo stesso per il tuo ambiente. Siamo tutti parte di una sola anima, l'anima di Adam. Tutti i desideri sul mondo, tutti i desideri provengono dall'anima di Adam. La sua anima fu spezzata a causa del grande peccato. Dopo impareremo i dettagli. Più vieni a conoscere persone diverse, più desideri vieni a conoscere. Fai tuoi tutti gli altri desideri perché ti porteranno alla tua realizzazione. Sarai arricchito dalla cultura di altre persone. Ogni nazione ha le sue speciali radici. In modo da prendere qualcosa della loro cultura, arricchisci la tua stessa radice. Quando stai da solo e tu lasci fuori gli altri, rimani solo nella tua cultura. Non riceverai un arricchimento nella tua vita, e quando apri le tue porte, il Creatore ti darà più lavoro di fare. Altre persone hanno altri desideri, e tutti quei desideri stanno costruendo i tuoi kelim. Cosa sono i kelim? Quelli sono i contenitori della luce. Più hai desideri diversi, più Kilim stai costruendo dentro di te, e questo ti porterà alla luce. Tutti i desideri provengono dalle radici di questa unica anima, l'anima di Adam. E tutte queste radici le devi prendere, farle tue, perché in un modo queste radici arricchiscono te stesso. Questo ti dà una totale immagine perfetta di un unico uomo, Adam. Perciò, facendo spazio in te stesso, per tutti i tipi di culture, tu arricchisci te stesso. E il posto che fai è lo spazio per lasciare entrare la luce e allo stesso tempo devi imparare a restare fedele alla tua stessa propria radice. Radice. Restare fedele alla tua radice è molto importante. Guardalo in questo modo, puoi imparare da ogni essere. Tutti i desideri delle altre persone sono i desideri da dove puoi ottenere il massimo profitto. Questo ti arricchirà. È l'intenzione della Kabbalah unire tutte le religioni. Sopra ogni religione c'è forza, l'unica e sola forza che si era divisa per mezzo della personificazione, ma in sostanza tutto è venuto da questa unica forma, dall'assoluta integrità e unità. È colui che è giunto a questa comprensione. È capace di creare in lui lo spazio e questo gli porterà amore. E ognuno di noi, indipendente, sperimenterà, ciascuno in modo personale, il vero amore come risultato dei loro propri sforzi. Quando qualcuno ti sta facendo, io ho guardato dappertutto, ma non l'ho trovato. Sappi che non è vero. Non ha cercato abbastanza. Devi sforzarti, tanto sforzo. Solo allora puoi venire al vero amore. E il vero amore è l'amore eterno, un amore che in nessun modo passa, un amore che rimarrà per sempre, ma tutto dipende solo da te. Maggiore è il tuo sforzo, grandissimo è il sentimento di apprezzamento. È lo stesso nella spiritualità. Nulla potrà o può accadere gratuitamente. Solo con la Kabbalah acceleriamo il processo. Cosa accadrà? Sarai stupito. Tu noti che sei aperto per un'altra persona. Dall'interno vuoi dargli un abbraccio, non dall'esterno, ma dall'interno di te. Inizi a sentire amore e più vai avanti con il tuo lavoro e arrivi al punto che anche il tuo peggior nemico lo vuoi abbracciare, ma non ora. La Bibbia dice: ama il tuo prossimo, ma questo è un gioco. Prima senti dentro l'amore per te stesso, non dall'esterno, ma dall'interno. Quando lo fai dall'esterno, sei un partecipante nel gioco. Notalo e diventa consapevole che solo attraverso il tuo lavoro interiore poi avverrai hai vero amore. Non c'è nessun altro accanto a lui. Che questa sia una preghiera interiore. Pronuncia questo dolcemente in te stesso. Questa è una frase di grandi e saggi cabalisti. E un cabalista dice solo cose che ha sperimentato e compreso. Non c'è nessun altro accanto a lui. Questa deve essere la tua preghiera interiore. Guarda tutte le correzioni e si può fare solo all'interno di te stesso. Riguarda tutte le correzioni e si può fare solo all'interno di te stesso. Riguarda tutto l'alleanza con il Creatore. Puoi pensare e avere la sensazione che va molto lentamente, perché vuoi sapere tutto riguardo l'albero di vita, ma sii paziente, lo riceverai. Prima c'era la luce e il Creatore si era tirato indietro da sé stesso, dal punto, e fuori da questo punto c'è l'eterna luce infinita, Ein Sof. Ciò che restava indietro era un posto vuoto, e in questo posto vuoto c'era spazio per l'universo, per tutto ciò che è materiale. Questo fu il suo primo atto. La prima manifestazione del Creatore fu il ritiro della luce, fu il suo primo atto di creazione. E il secondo atto è Ein Sof, la luce, quella entrata nello spazio vuoto, ma il modo in cui egli era entrato era diverso dal modo che egli era uscito. Se fosse stato uguale, tutto sarebbe ancora pieno di luce. Allora è possibile parlare di una creazione? Doveva essere diverso come? La luce si inserisce nella forma. Lo spazio vuoto, come un raggio molto piccolo. Impareremo a conoscere questo punto centrale. È tutto ciò che riguarda il nostro mondo. Non c'è un mo mondo più rozzo del nostro mondo. Verrai all'esperienza che questo è il punto più difficile. Vediamo tutti i pianeti che ci circondano, ma appartiene anche al punto. Il punto dello spazio vuoto è il punto in cui tutto è il materiale e tutto è fisico, il fisico è. E la luce entra in questa forma per mezzo di un raggio. Non cercare di capire, più tardi inizierai a sentire, a sperimentare il mondo Azilut, ma per il momento è sconosciuto per te. Passo dopo passo arriverai a sentire. La luce entra per mezzo di un piccolo raggio. Cosa significa? Prima c'era solo la luce, poi il vuoto, poi un piccolo raggio di luce. Perché solo un piccolo raggio? Una delle sue prime azioni fu di rendersi piccolo. È lo stesso come io ti dico. renditi umile, piccolo. Il Creatore si era fatto piccolo. Devi anche farti da te stesso piccolo. Questo è il suo raggio, perché non c'era alcun potere nel vuoto. C'era una mancanza di forza per ricevere la luce. Supponiamo che tu sia stato cieco fino ad oggi. E ora puoi vedere. I tuoi occhi devono adattarsi alla luce. Si inizia con un raggio piccolo e quando si regola la luce può diventare più nitido. Se dovessimo fare altrimenti, la luce ci accecherà di nuovo. È lo stesso con la sua luce. Tu devi farlo lentamente. Devi abituarti alla luce, al piacere che ricevi dalla luce. Deve crescere passo dopo passo. Con quanto piacere sei soddisfatto? Quanto puoi ricevere? Supponiamo che tu vuoi l'intero raggio. Potresti sopportarlo? Dunque, la luce entra a noi molto, molto lentamente. Ci sono due tipi di luce, la luce diretta e la luce rotonda. O in un altro modo, ci sono due modi per far entrare la luce, come una luce diretta o come una luce rotonda. Prima la luce entra e a un certo punto viene la luce rotonda. Allora l'uomo può ricevere la luce diretta. E questo è legittimo per ogni persona che vive in questo mondo. Ogni persona vivente in questo mondo può ricevere la luce rotonda. Ma la vera spiritualità va sulla luce diretta. La luce viene direttamente dall'Ein Sof del Creatore. Questa è la luce che noi andiamo a sperimentare. E questo è chiamato l'esperienza personale con il Creatore. La luce rotonda è la luce dell'esperienza. Stiamo facendo uso di questa luce, ma la vera realtà è all'interno della luce diretta. Il Creatore esiste. Una volta che lo trascuri, o lo rinneghi, si tira indietro e sta ridendo a te. Tu sperimenti la luce, ma è la luce rotonda, non la luce calda e diretta. La relazione con il Creatore lascia che ti racconti una breve storia. Un bambino è seduto sulle spalle del padre e il bambino è felice che possa vedere così tante cose, ma dopo un po' si dimentica che era seduto sulle spalle del padre e inizia a chiedere: dov'è mio padre? È lo stesso con il popolo ebraico. Sono seduti sulle spalle del loro creatore, ma essi hanno dimenticato e stanno chiedendo: dov'è il creatore? Dov'è il nostro padre? Perché non sanno che sono ancora seduti sulle spalle del creatore, perché il creatore non li ha mai gettati via. Non siamo tutti seduti sulle sue spalle? Anche un ateo è seduto sulle sue spalle, solo che non vogliono o non sanno questo. Essere ebreo significa essere in contatto con il tuo essere interiore. Ogni essere interiore è seduto sulle spalle del Creatore. Quindi, all'inizio c'era un raggio minuscolo. Questa è la ragione perché sei arrivato alla Kabbalah. Ecco perché sei qui e non un'altra persona. Stiamo costruendo la relazione con il Creatore. Strutturiamo noi stessi dall'interno, proprio come era nell'inizio del mondo. Questo è ciò che faremo. Noi iniziamo a studiare questa strada, questo percorso. Io sono la via. Io sono la via è un'espressione molto spesso sentita, ma lo devi costruire in questo modo dentro te stesso. Significa essere penetrati dalla luce, lasciare che la luce risplenda dentro di te, il fluire dell'Ein Sof. Più ti avvicini al bordo, più ti avvicini al tuo interno, più ci avviciniamo all'Ein Sof. E lì possiamo trovare l'interezza. Ma più ti allontani dal limite, più nebuloso diventa. Noi stiamo arrivando nel mondo materiale. Il mondo materiale è un mondo molto pesante. Lui che ha raggiunto il Creatore, per quanto possibile, sentirà la sua forza. Ma quando si allontani da lui, si sente poco, sente che non c'è libera scelta. Ognuno di noi è connesso con il Creatore, conosciuto o sconosciuto. L'uomo non è come un angelo. Cosa significa angelo? Un angelo è una forza divina che soddisfa i desideri del Creatore. È solo una certa forza, una forza. Più ti avvicini al punto centrale e noterai che la forza diventa più verticale. E da qualche parte a metà strada l'uomo è creato. Puoi confrontarlo con il processo di nascita di un bambino appena nato. Prima c'è il seme e lentamente il frutto sta diventando denso, più materiale. Più ci avviciniamo alla terra, più il materiale è duro e questo succede a causa della sua forza. Tutti i processi di vita arriverete a capirlo. Ognuno di voi verrà alla comprensione. Ciò di cui avete bisogno è la persistenza. Ciò che riceviamo non scomparirà mai. Tutte le parole che hai detto e che stai per leggere sono una connessione con l'Eterno. Quando tu muori, tutto va in un posto, nel luogo eterno. Noi non tocchiamo la carne. Naturalmente all'inizio sto parlando di questo mondo, ma solo per renderlo chiaro per te. Ma in sostanza non sto parlando di questo mondo. Iniziamo a lavorare sulla nostra anima eterna, l'anima che una volta ci ha penetrato. Si tratta di renderci adatti per ricevere la luce. Per venire a contatto con la luce, noi vogliamo finire il lavoro. Quando trascuriamo questo, dobbiamo tornare a provarlo ancora una volta. Questo è l'unico obiettivo che vogliamo raggiungere: entrare in contatto con la luce interiore. Tutte le tue frasi saranno affilate. Il tuo gusto aumenterà e questo accade solo entrando in contatto con la tua luce interiore.